denaro, il denaro. Dovete darci il denaro e poi ne riparliamo. Dovete darci il denaro, poi ne riparliamo poi. Forza, ora dividete la grana. Siamo soci alla pari nella società umana. Banchiere, vieni in strada, datti una calmata. Dacci il bottino, tira fuori i soldi e paga. Dacci il denaro, il primo di ogni mese. Mandiamo avanti il mondo, ne abbiamo spese. Firma l'assegno, dacci un taglio e fai bravo. Qui nessuno vuole essere il tuo schiavo. Noi non abbiamo freni, dove va il nostro passo? Lì va la vita, tu vai al... Sì, stiamo sentendo una canzone, soprattutto per la seconda strofa. Poi la chiudiamo. Gira la ruota, noi sappiamo quanto l'obbedienza e l'onestà non porta in questa vita la felicità. Perché di ricchezza nel mondo ce n'è, ma la parte che ci spetta adesso tassa di chi è? Dovete darci il denaro, il denaro. Dovete darci il denaro e poi ne riparliamo. Dovete darci il denaro, poi ne riparliamo poi. Della terra la facciamo noi, piramidi in Egitto le abbiamo alzate noi, il fondo di miniere lo scaviamo noi, l'uomo sulle stelle ce lo mandiamo noi, ogni informazione a sangue di noi, ogni rivoluzione inizia solo se ci siamo noi, la ricchezza della terra la facciamo noi ce n'è, ma la parte che ci spetta adesso a tasca di chi è? Grandi produttori, dalle elementari, siamo sempre al lavoro e non bastano orari, con le nostre azioni voi incassate denari, coi nostri denari fate i profitti stellari, quando lo scrittore dà potenza alla rima, è la voce del banchiere che ha l'opzione per prima. Ma quando un hacker sforza accesso ai sistemi, è il banchiere che rivende risposte ai problemi. Sono i biologi o no che lavora nei geni, banchieri arrivano in brevetta nei semi. Sono i medici o no che lavora nei vaccini, banchieri mettono brevetti sui nostri destini. Ecco i parassiti, ecco la malattia, succhiano, succhiano la nostra energia. Poi fanno un break in Polinesia a comprare terre selvagge e fondali del mare. Volo un aereo privato fiammante, cena in villa dell'amico presidente. Parlano di quanta libertà, quante possibilità ci sono in questa nostra società, ma se guardi bene tra i ricami, tra tessuti e bottoni, c'è un'anima cucita di milioni di nomi, che poi va a letto sul nudo pavimento come un uomo originale tipo di parcheggio a tempo. Dovete darci il denaro, il denaro. Ok, era questa la strofa e la canzone che ci interessava fare sentire in apertura. È una canzone che si intitola Denaro Gratis, degli Assalti Frontali, un gruppo romano che magari in diversi già conoscono. Era soprattutto quella seconda strofa, quella che volevamo usare all'inizio per introdurre il tema dell'incontro di oggi. Dunque, intanto benvenuti. Il tema, sì, l'argomento dell'incontro è sul general intellect. È un argomento che ci pare difficile, però allo stesso tempo senz'altro importante per ripartire da alcune basi solide, teoriche, e capire come oggi si produce ricchezza nel mondo e qual è il modo di appropriarsene, cioè come funziona lo sfruttamento e anche come uscirne. Abbiamo invitato per discutere di questo Ubaldo Fadini e Massimo Grandi, docenti entrambi all'Università di Firenze e che si sono occupati del tema in diversi loro scritti, e da Roma il sociologo Domenico Moro, autore di diversi volumi di carattere economico, politico. La domanda di apertura è: che cos'è il general intellect? Io lo voglio introdurre soltanto perché due dei tre interventi entreranno nel merito. Il primo intervento sarà invece quello di Moro sull'attualità del marxismo. Scegliamo questo tema per aprire perché ci sembra importante ripartire da qui per rispondere alla domanda e anche per affrontare seriamente l'argomento. Ci chiediamo in partenza: è Marx a essere ormai obsoleto o piuttosto è l'uso che ne facciamo oggi ad esserlo? È per rispondere a questa domanda che abbiamo invitato Moro. E ci domandiamo questo perché spesso la percezione che si ha è che chi si riferisce a categorie marxiane, chi li utilizza, tende a rifarsi alla sua analisi del capitalismo ottocentesco, ignorando, rimuovendo del tutto quelle che sono invece le sue indicazioni di analisi che riguardano uno stato della società grosso modo simile a quello che viviamo adesso. L'esempio in questo senso più clamoroso riguarda il tema del general intellect contenuto nei Grundrisse. I Grundrisse, giusto per chi non sapesse, sono un lavoro preparatorio alla critica dell'economia politica, risalgono a una decina d'anni prima del Capitale, sono stati pubblicati in Italia a partire dagli anni 60 e dietro la loro forma contorta, dal momento che non erano testi destinati alla pubblicazione ma appunti, si rivelano, celano spesso delle linee di pensiero, delle intuizioni senz'altro originali e anche poco battute. Quello da cui vogliamo partire è un frammento contenuto dentro a questo libro, a questa pubblicazione del General Intellect, un frammento noto come il frammento delle macchine. Un estratto di questo frammento, che in realtà è lungo alcune pagine, anche se lo si definisce frammento, sta lì sulla cesta di Vimini, come si dice, sul mobiletto di Vimini, insomma, per chi lo vuole prendere. Un altro è qui, se chi non lo ha lo posso fare girare, se non ti dispiace. Grazie. E quindi vorrei iniziare a leggere alcuni brevi estratti da questo testo, che a sua volta è già un estratto da un testo più lungo. La faccio breve e premetto che il linguaggio e i concetti non sono semplici. Lo stesso però partirei leggendo qualche cosa. Nella stessa misura in cui il tempo di lavoro è posto dal capitale come unico elemento determinante, il lavoro immediato e la sua quantità scompaiono come principio determinante della produzione. E vengono ridotti sia quantitativamente a una proporzione esigua, sia qualitativamente a momento certamente indispensabile, ma subalterno rispetto al lavoro scientifico generale. In questa trasformazione non è né il lavoro immediato, eseguito dall'uomo stesso, né il tempo che egli lavora, ma l'appropriazione della sua produttività generale, la sua comprensione della natura, in una parola, è lo sviluppo dell'individuo sociale che si presenta come il grande pilone di sostegno della produzione e della ricchezza. Subentra il libero sviluppo dell'individualità e dunque in generale la riduzione del lavoro necessario della società a un minimo, a cui corrisponde poi la formazione e lo sviluppo artistico, scientifico, eccetera, degli individui, grazie al tempo divenuto libero e ai mezzi creati per tutti loro. Il risparmio di tempo di lavoro equivale all'aumento di tempo libero, ossia del tempo dedicato allo sviluppo pieno dell'individuo, sviluppo che a sua volta reagisce come massima produttività sulla produttività del lavoro. Esso può essere considerato dal punto di vista del processo di produzione immediata come produzione di capitale fisso. Questo capitale fisso è l'uomo stesso. Ecco, in questi passaggi, che sono obiettivamente un po' difficili, un po' ostici, soprattutto per chi non ha familiarità con certe categorie o con un certo modo di scrivere, si parla in sostanza di uno stadio dello sviluppo della società molto simile a quello d'adesso, in cui la creazione di ricchezza dipende sempre meno dal tempo di lavoro e sempre più da quegli agenti che vengono messi in moto durante il tempo di lavoro. Agenti che poi a loro volta dipendono dallo stato generale dell'arte, della scienza, della tecnologia. Ed è qui, nelle pagine del frammento delle macchine, che si introduce il tema del general intellect, inteso come sapere in generale, come insieme di saperi collettivi, ma anche come esperienza di prassi sociale, per dirla alla buona, come processo di vita reale inteso nel suo complesso. A noi ci sembra che siano tre gli aspetti importanti, forse su tutti, anche perché quelli meno approfonditi da rilevare, e li introduco prima di dare parola agli ospiti. Il primo, il fatto che il moderno sfruttamento avvenga come somma dello sfruttamento diretto del lavoratore e come sfruttamento indiretto del general intellect. E il fatto che il prodotto finale, il prodotto come merce, abbia all'interno una quantità maggiore di quel plusvalore estratto dal general intellect. È quello molto più significativo e potente di quello prodotto direttamente. Anzi, forse lo si potrebbe considerare quasi determinante per spiegare i limiti strutturali del capitalismo stesso. Il secondo fatto che ci preme di rilevare è il fatto che per produrre direttamente plusvalore, il capitale ne paga un prezzo, paga il prezzo della forza lavoro, il lavoro necessario, paga un salario, voglio dire. Mentre per produrlo indirettamente, cioè per estrarlo dal general intellect, non paga alcun prezzo, nessun equivalente, se lo prende e basta. Un esempio in questo senso può essere quello dello studente universitario. Lo studente, in quanto tale, in questo suo ruolo, produce come parte del general intellect ricchezza, cioè valore, che però poi non viene retribuita, non solo, anzi lo si obbliga a pagare per venire di fatto sfruttato. Ultimo fatto che vogliamo rilevare è il fatto che l'individuo viene qui, è l'ultimo dei passaggi che ho letto, concepito a un tempo solo come lavoro vivo e capitale fisso. Come capitale fisso nel senso che accumula su di sé quel sapere sociale complessivo che poi tramite il lavoro vivo trasferisce nel prodotto finale. Cioè vi trasferisce, oltre al suo lavoro vivo, anche direttamente, vi trasferisce direttamente anche il capitale fisso che usa nella produzione, perché ad esempio mette in moto un macchinario, ma vi trasferisce anche indirettamente tutto quel sapere collettivo che porta con sé, tutto il general intellect, cioè tutto quel capitale fisso che ha incorporato precedentemente nel suo essere un individuo sociale. E soltanto per chiarire questo punto, due aspetti. Il fatto che non necessariamente il lavoratore finale poi deve essere un salariato di un'impresa, basta pensare alle mille forme che oggi esistono di lavori diretti o indiretti all'impresa che oggi disegnano il processo di creazione, produzione, commercializzazione delle merci. E secondo, il fatto che non necessariamente la cosa finale deve essere appunto una cosa, poiché tante delle produzioni di oggi sono sostanzialmente immateriali, cosa che precisa e chiarisce però nulla cambia delle dinamiche che stiamo provando qui a illustrare. Quindi, per ricapitolare, i tre punti che volevo fissare erano questi. Il primo, il fatto che lo sfruttamento del general intellect oggi è più forte e preminente rispetto a quello allo sfruttamento del lavoro diretto. Secondo, il fatto che lo sfruttamento del general intellect non viene pagato, il capitale se ne appropria gratis. Terzo, l'individuo concepito un tempo solo come capitale fisso e lavoro vivo. Come lavoro vivo abbiamo capito, come capitale fisso appunto nel senso che assume su di sé, in sé, tutto quel general intellect di cui parlavamo. Capitale fisso questo, che poi a sua volta è capitale vivo precedentemente incorporato e che poi tramite il lavoro vivo viene messo a profitto, viene inserito, trasportato nel prodotto finale. Adesso quindi, dopo questa introduzione, do la parola ai relatori per affrontare questo tema che, come dicevo, ci sembra importante per ripartire su alcune ferme basi nell'individuazione di strategie di superamento del capitalismo o di orientamento di programmi e politiche immediate. Con Fadini approfondiremo l'oggetto in questione e capiremo che cosa è il general intellect. Con Grandi vedremo come lo si possa usare, quale strumento di lotta e quali rivendicazioni minime da questo concetto si possano desumere. Però intanto do la parola a Moro, che spero che ci spiegherà perché tutto ciò di cui vogliamo parlare non è roba vintage. Allora, io, va bene, forse è meglio col microfono. Sì, io sono veramente grato a Collettivo Putilov per aver organizzato questa iniziativa, anche perché fino adesso, negli ultimi anni, o meglio nell'ultimo anno e mezzo, sono stato invitato quasi esclusivamente a iniziative sulle questioni dell'euro, sull'uscita dell'euro. Quindi una volta tanto sarebbe bene, diciamo così, anche per me parlare. Scusami, siccome stiamo registrandolo per poi trasmetterlo su Radio Wombat, sì. Ti dispiace avvicinare il microfono, sì. Tenerlo in mano, scusa. Quindi diciamo che è un'occasione molto gradita perché mi permette di parlare di Marx, e fra l'altro non è neanche una cosa separata dalla questione dell'Europa, dell'euro, perché dal mio punto di vista essere contro questa Europa, contro l'euro, vuol dire aver capito cosa significa l'euro, cosa significa questa Europa in questa fase dell'accumulazione del capitale. Infatti noi dobbiamo sempre calare le categorie di interpretazione marxista nella fase storica in cui ci troviamo. Infatti io credo che oggi Marx è attuale molto più che a metà degli anni 60 dell'Ottocento, quando ha scritto Il Capitale, perché le cose che lui scrive nel Capitale trovano inveramento, concretizzazione proprio oggi. Fra l'altro non è assolutamente vero che Marx parlava solamente di una classe operaia di fabbrica, ma come ha detto il compagno poc'anzi, è lavoratore produttivo, produttivo di plusvalore e quindi sfruttato dal capitale, anche chi non produce merci materiali. Ma questo Marx l'aveva già detto. C'è un capitolo in cui lui parla nel Capitale di lavoro produttivo e, come esempio di lavoratore produttivo, egli cita il maestro di scuola. Dice che se il maestro di scuola viene impiegato da un capitalista che investe il suo capitale per fare un profitto, ebbene il maestro di scuola diventa produttivo di plusvalore. Se noi andiamo su una grande nave di quelle da crociera, tutti i lavoratori che sono impegnati, da quelli alle macchine, ai camerieri, i marinai, eccetera, eccetera, sono operai di una grande fabbrica che non produce, diciamo così, un manufatto, produce un servizio, produce una vacanza per le persone che hanno acquistato il viaggio attraverso quella nave da crociera. Quindi io credo che noi oggi siamo davanti a un'opera che è assolutamente attuale, perché ci spiega il perché della crisi economica, ci spiega anche indirettamente il ruolo dell'euro e dell'Europa come contrasto alla crisi del capitale, cioè come strumento che il capitale usa per contrastare la caduta tendenziale del saggio di profitto. Ma ci spiega anche perché l'euro, l'Europa, sono utilizzati anche per costituire, allargare lo sfruttamento della forza lavoro e permettere di funzionare quel grande strumento che consente di mantenere alto il saggio di profitto, il saggio di sfruttamento, cioè l'esercito industriale di riserva. Quindi diciamo che Marx oggi è importante, purtroppo è stato messo da parte negli ultimi 10-20 anni. Io vengo da un'esperienza abbastanza lunga, ahimè, nei partiti comunisti, ebbene ho rilevato che in molte situazioni era difficile fare formazione a partire dal capitale, a partire da Marx. Perché questo? Perché si è privilegiata, diciamo così, l'attività politica spicciola, immediata, la tattica, anziché pensare alla strategia. Pensare alla strategia a lungo periodo, come ripensare il ruolo dei comunisti, dei lavoratori, in una società a capitalismo avanzato, richiede necessariamente Marx. Marx è imprescindibile, ed è imprescindibile il Marx del capitale, il Marx dei Grundisse, il Marx delle teorie sul plusvalore, ma anche il Marx delle opere storiche, il 18 Brumaio di Luigi Bonaparte, le lotte di classe in Francia. Perché? Perché gli studi storici di Marx ci dimostrano che determinate interpretazioni di Marx sono fallaci. Quando si dice che Marx pensava che ci sarebbero state solamente due classi nella società moderna, lavoratori salariati e capitalisti, ebbene quella è una panzana. Perché? Perché Marx stesso ci specifica che il movimento stesso del capitale produce tutta una serie di settori e di classi intermedie tra i capitalisti e i lavoratori salariati. Lo stesso Lenin diceva, riprendendo Marx, che il problema per i capitalisti è leggere la società, la composizione di classe della società, appunto perché c'è tutta una serie di settori sociali intermedi che vanno compresi, vanno studiati. Tant'è vero che Marx nel 18 Brumaio e nelle lotte di classe in Francia ipotizzava un'alleanza tra i proletari, gli operai e i contadini, la classe dei piccoli contadini, che era allora molto numerosa. Oggi noi non abbiamo più una classe di contadini, abbiamo altri settori intermedi, però rimane la necessità di costruire un blocco di alleanze, rimane soprattutto la necessità di portare avanti un'analisi delle classi sociali. Quindi perché è importante il capitale di Marx? Perché è importante studiare i Grundisse o le teorie sul plusvalore? Perché all'interno Marx delinea le leggi di movimento del capitale, e delineando, analizzando le leggi di movimento del capitale, ci aiuta a capire le leggi di movimento della società. Queste leggi però non sono deterministiche e meccanicistiche, ma sono dialettiche. Cosa vuol dire? Vuol dire che Marx non dice che c'è una legge che porta avanti meccanicisticamente e deterministicamente una conseguenza. Lui ci dice che quelle stesse leggi sono tendenziali, che subiscono degli ostacoli, perché appunto la realtà storica è complessa. C'è sempre un feedback che la stessa economia dal luogo e che in qualche modo rallenta o ostacola quelle leggi di movimento della realtà stessa. Ma la lotta di classe stessa, lo Stato, ci sono fattori di controtendenza, intervengono all'interno di queste leggi deterministiche per appunto contrastarle, per rallentarle e per determinare la realtà per come noi oggi l'abbiamo sotto gli occhi. Quindi noi non dobbiamo interpretare Marx in modo meccanicistico o deterministico, perché sarebbe antimarxista. Dobbiamo interpretare Marx appunto in modo dialettico, capendo tutte le interazioni che ci sono tra le leggi di movimento della realtà e gli altri aspetti della realtà, i rapporti che ci sono tra la struttura economica e la struttura politica. Perché non sarebbe possibile oggi interpretare, ad esempio, la legge della caduta tendenziale del saggio di profitto se noi non capissimo e studiassimo il ruolo dello Stato e il contrasto che lo Stato porta contro questa legge di caduta tendenziale del saggio di profitto. Ho anticipato alcuni elementi di quello che volevo dire. Quindi, quali sono queste leggi su cui è importante oggi, nel 2019, ragionare all'interno della nostra società? Leggi senza le quali noi non riusciamo a capire questa società e non riusciamo neanche a capire come andare avanti, come pensare a una proposta antagonistica nei confronti del capitale. La prima di queste leggi è la legge generale dell'accumulazione. Però per spiegarla devo fare un passo indietro. Alcune cose le ha dette il compagno, io dirò rapidamente alcune cose molto semplici. Per Marx esiste il capitale e il capitale viene investito sostanzialmente in due parti. Una parte viene investita in forza lavoro e una parte viene investita in macchinari, materie prime, energia elettrica, capannoni, eccetera, eccetera. La parte investita in forza lavoro viene definita capitale variabile, mentre la parte investita in macchinari, materie prime, capannoni, eccetera, eccetera, viene definita capitale costante. Qual è la differenza tra il capitale variabile e il capitale costante? La differenza sta nel fatto che il capitale variabile, la forza lavoro, è l'unica che produce valore in più, plusvalore. Mentre il capitale costante viene incorporato così com'è per il valore che ha all'interno della merce. Quindi l'elemento forte, solido della costruzione di Marx sta nel fatto di individuare l'uomo, la forza lavoro, come la fonte della nuova ricchezza, del plusvalore. Cosa fa il capitale? Il capitale è fondato sull'accumulazione. Cos'è l'accumulazione? L'accumulazione è il processo continuo di realizzazione del profitto, e questo profitto, una parte di questo profitto, viene riutilizzata per allargare ancora di più la produzione. Quindi il capitale è essenzialmente un sistema che si ingrandisce sempre di più ed è fatto come una spirale i cui cerchi concentrici si allargano sempre di più, fino ad inglobare parti del mondo dove prima non era presente e ad inglobare anche settori dove prima non era presente. Per esempio pensiamo alla grande distribuzione, pensiamo alla ristorazione, pensiamo a settori del tutto nuovi come le telecomunicazioni, pensiamo al turismo, pensiamo al piccolo commercio che è molto ridotto e che è sostituito dalla grande distribuzione. Il capitale aumenta i bisogni, ingloba settori della produzione all'interno del suo processo di accumulazione e soprattutto ingloba territori nuovi, che è esattamente quello che noi abbiamo visto negli ultimi decenni con l'inglobamento all'interno del processo di produzione capitalistico di paesi come l'India, la Cina, il Vietnam, l'Indonesia e così via. Il problema qual è però? È che in questo processo di accumulazione continua e di investimento continuo si ha un fenomeno che Marx definisce l'aumento della composizione organica di capitale. Che cosa vuol dire questa parola che apparentemente è così difficile e che in realtà è abbastanza semplice? Vuol dire che ad ogni investimento successivo la parte dell'investimento totale che va al capitale variabile si riduce, mentre aumenta in proporzione la parte che va in capitale costante. Quindi questo determina un effetto che è particolarmente grave per la classe lavoratrice, che è appunto quello descritto nella prima delle leggi che Marx descrive nel Capitale, la legge generale dell'accumulazione. Cosa dice la legge generale dell'accumulazione? Dice che man mano che il capitale procede nei suoi cicli di accumulazioni, si genera una sovrappopolazione, cioè un eccesso di popolazione. Cioè vengono espulsi i lavoratori e i nuovi lavoratori che si affacciano sul mercato non riescono ad essere assorbiti all'interno della produzione. In sostanza, la legge generale dell'accumulazione produce disoccupazione, produce quello che Marx chiama esercito industriale di riserva. E questo esercito industriale di riserva è composto da tre parti: la parte fluida, la parte stagnante. E però quella che è più importante è proprio la parte stagnante, cioè quella parte che noi oggi chiamiamo precariato. E qui c'è una grande importanza di Marx, una grande attualità di Marx, perché Marx ci dice che il precariato non è un qualche cosa, diciamo così, di nuovo del capitalismo, è essenzialmente parte del processo di accumulazione capitalistico e un effetto della legge generale dell'accumulazione. Ed è parte dell'esercito industriale di riserva. Proprio grazie al precariato, ai disoccupati, che il capitale riesce, attraverso la pressione che questi esercitano sulla forza lavoro occupata, a mantenere i salari bassi. Quindi per il capitale è necessario l'esercito industriale di riserva, è un elemento essenziale, e la legge generale dell'accumulazione non solo è un elemento necessario nell'accumulazione del capitale, ma è anche un elemento necessario alla produzione di profitto, perché senza disoccupati gli occupati rivendicherebbero salari sempre più alti, riducendo o annullando addirittura il profitto del capitalista. Però bisogna anche dire che questa legge non è una legge deterministica, perché può essere contrastata dalla lotta del lavoro salariato. Infatti la legge generale dell'accumulazione, l'esercito industriale di riserva, è stato contrastato in determinate fasi storiche, proprio grazie all'impegno della forza lavoro, alle lotte, ai sindacati, ai movimenti rivoluzionari, al confronto con l'Unione Sovietica, per cui noi per un certo periodo di tempo abbiamo avuto un'occupazione che si avvicinava alla piena occupazione, abbiamo avuto un welfare state che compensava l'esercito industriale di riserva. C'è uno studio dell'ILO molto interessante, l'Institute of Labor Organization, l'International Labor Organization, scusate, il quale dice che le espulsioni di forza lavoro a seguito dell'introduzione di robot e dell'informatica negli anni 80 è stata attutita, cioè l'effetto sui salari dell'espulsione di massa di lavoratori fu attutito dal welfare state. Capiamo quindi bene che i trattati europei, il fiscal compact, i vincoli al bilancio, le lettere della Banca Centrale Europea sono tutti elementi che vanno a incidere sull'elemento che permette alla legge generale dell'accumulazione sotto forma dell'esercito industriale di riserva di agire di nuovo liberamente, proprio perché la lotta di classe, la storia, la pressione sullo Stato da parte dei partiti operai e dei sindacati aveva rallentato, aveva attutito il funzionamento di questa legge. Oggi, grazie all'Europa, grazie ai trattati, queste leggi stanno ricominciando a funzionare. Quindi la legge generale dell'accumulazione è un elemento che noi dovremmo ricominciare a studiare in tutti i suoi effetti, in tutte le sue caratteristiche, che sono sicuramente molto più articolate di quanto io abbia potuto esporre in questa sede. L'altra legge fondamentale del modo di produzione capitalistico è la legge della caduta tendenziale del saggio di profitto. Sulla legge tendenziale della caduta tendenziale del saggio di profitto si sono scritte migliaia e migliaia di pagine. Si diceva che era una legge deterministica, meccanicistica, che non funzionava più e che era, diciamo così, il portato di quella parte del pensiero marxista che era appunto positivista. In realtà noi stiamo vedendo oggi il ripresentarsi della caduta tendenziale del saggio di profitto, Io personalmente sono andato a vedere dei dati statistici ed è abbastanza evidente come all'aumento della composizione organica di capitale c'è una caduta direttamente proporzionale del saggio di profitto. Quindi più va su l'aumento della composizione organica di capitale e più va giù il saggio di profitto. Perché? Perché se all'interno del capitale che io investo a un nuovo ciclo, nei nuovi cicli mi diminuisce la forza lavoro e se la forza lavoro è l'unica che mi produce plusvalore, io avrò una quantità inferiore di plusvalore in rapporto al capitale investito. Quindi sostanzialmente mi si determina una caduta tendenziale del saggio di profitto. Per la verità, la caduta del saggio di profitto non è un'invenzione di Marx, perché ne parlava già Adam Smith. Quindi è una cosa che i classici dell'economia avevano già notato, anche se non la spiegavano esattamente con le motivazioni che Marx usa. Il punto è un altro, è capire, dice Marx, questo è fondamentale però compagni, vi prego di fare attenzione, è perché la legge della caduta tendenziale del saggio di profitto non è più veloce e perché non porta al crollo del capitalismo, almeno non ha portato al crollo del capitalismo fino ad ora. E Marx dimostra il suo essere dialettico e tutt'altro che deterministico e meccanicistico dicendo una cosa molto semplice, dedicando un capitolo intero a quelle che lui chiama cause antagonistiche, cioè a quegli elementi che i capitalisti, il capitale stesso, mette in atto per contrastare la caduta del saggio di profitto. E quindi rallentare questa caduta e rendendola tendenziale. Infatti Marx non parla di caduta del saggio di profitto, parla di caduta tendenziale del saggio di profitto. Ora il punto fondamentale è che il movimento sottostante alla società dell'economia che produce la caduta del saggio di profitto determina tutta una serie di conseguenze, le cause antagonistiche che hanno a loro volta tutta una serie di effetti determinando la realtà sociale ed economica e internazionale così come noi oggi la vediamo. Infatti, quali sono gli strumenti che secondo Marx il capitale usa per rallentare questa benedetta caduta del saggio di profitto? Primo, l'aumento dello sfruttamento della forza lavoro. Quindi è vero che i lavoratori diminuiscono in rapporto al capitale complessivo che viene investito, però se questi lavoratori che sono di meno o sono di ugual numero ma a fronte di un capitale più grande vengono sfruttati allo stesso modo, si genera la caduta del saggio di profitto. Ma se il capitalista aumenta il loro sfruttamento, aumentando l'intensità del lavoro, introducendo macchine che aumentano la velocità del lavoro, se si riduce il salario soprattutto, salario diretto, indiretto e differito, e anche in questo caso entrano in gioco i trattati europei, le lettere della BCE che dicono che bisogna fare le riforme del mercato del lavoro, le riforme delle pensioni, eccetera, eccetera, allora c'è un fattore di controtendenza rispetto alla caduta del saggio di profitto. Quindi aumento dello sfruttamento della forza lavoro, creazione di un esercito industriale di riserva. Non è un caso che il capitale cerchi di aumentare non tanto gli occupati quanto le forze di lavoro, cioè di fare in modo che più settori della popolazione entrino all'interno del mercato del lavoro, anche se in modo fluido, cioè entrando e uscendo a seconda del ciclo. Terzo, la diminuzione del prezzo del capitale costante. Noi tutti abbiamo sotto gli occhi quanto ad esempio il valore dei computer in termini di prezzo tende a scendere. Per questo alle volte i capitalisti devono produrre macchine, macchinari sempre più sofisticati per tenere su alto il prezzo, perché i macchinari vecchi si deprezzano rapidamente e anche quello è un elemento di controtendenza alla caduta del saggio di profitto. Ma quella che è la causa antagonistica, a mio parere più interessante, è l'uso del commercio estero. Cioè il fatto che il capitalista, i capitalisti, per contrastare la caduta del saggio di profitto, ricorrono alle esportazioni di capitale e alle esportazioni di merci. Perché attraverso i vari cicli di accumulazione i capitali diventano più grandi. Abbiamo visto per la legge della caduta del saggio di profitto che c'è un problema per i capitalisti, però se questo saggio di profitto viene applicato su capitali più grandi, perché le società si coalizzano, le società si fondono, diventano gruppi sempre più grandi, allora la massa del profitto cresce. Questo è intuitivo, perché se il mio saggio di profitto cala dal 10% al 5%, ma io lo applico da un capitale di 1 miliardo invece a un capitale di 10 miliardi, la massa totale del profitto mi aumenterà. Però lì ho un altro problema: produrrò molto di più, produrrò molte più merci, e a chi le devo vendere? Da qui l'importanza delle esportazioni, da qui la spinta alla concorrenza, la spinta all'invasione dei mercati esteri e la spinta all'allargamento del mercato mondiale. Ma l'allargamento del mercato mondiale non avviene solamente attraverso l'esportazione di merci, avviene anche attraverso le esportazioni di capitale, perché i capitalisti vanno a investire lì dove il saggio di profitto è più alto, perché appunto lì la composizione organica di capitale è più bassa. Ed è questa la ragione per cui negli ultimi 20 anni c'è stato un grosso spostamento di capitali produttivi dai paesi centrali, come appunto l'Europa occidentale, gli Stati Uniti, il Giappone, verso i paesi periferici cosiddetti emergenti. Solamente alcuni dati per farvi capire l'entità di questo processo. Dunque, l'Italia nel 1970 aveva un valore delle esportazioni sul prodotto interno lordo che arrivava all'11,7%, le esportazioni erano l'11,7% del PIL. Nel 2027 sono più che raddoppiate, sono pari al 26,1%. Gli altri paesi dell'Europa, i paesi principali dell'economia capitalistica, hanno la stessa evoluzione. Per esempio, la Germania parte dal 15,9% del 1970 e arriva a quasi il 40% del 2017. Le esportazioni tedesche valgono il 40% del prodotto interno lordo tedesco. Ma per quanto riguarda gli IDE, ovvero gli investimenti diretti all'estero, cioè quegli investimenti attraverso cui il capitale stabilisce nuovi impianti oppure acquisisce nuove imprese, che realizza fusioni e acquisizioni all'estero, lì l'esplosione è ancora più forte. Infatti l'Italia aveva investimenti diretti all'estero nel 1980 pari all'1,5% del PIL. Nel 2017 gli investimenti sono saliti al 27,5% del PIL. La Francia nel 1980 aveva investimenti pari al 3,5% del PIL, nel 2017 investimenti pari al 56%. E questi sono solamente alcuni paesi dell'appunto del centro, chiamiamolo, metropolitano capitalistico. Quindi il problema di fondo oggi è riuscire a capire come queste leggi funzionano e come ci restituiscono alla realtà che abbiamo sotto gli occhi. Marx conclude il suo ragionamento sulla legge sulla caduta tendenziale del saggio di profitto dicendo che questo andamento contraddittorio, crisi-espansione, espansione-crisi, che è appunto legato dialetticamente, dà luogo alle tre caratteristiche fondamentali del capitalismo. Il primo è la concentrazione della produzione, della proprietà dei mezzi di produzione in poche mani, con l'eliminazione, seppure in modo contraddittorio, sottolineiamolo, seppure in modo contraddittorio, della proprietà individuale e del lavoro individuale. Secondo, l'uso massiccio della scienza, delle scienze naturali, della cooperazione all'interno della produzione. Terzo, la creazione del mercato mondiale. Ebbene, la realtà odierna ci restituisce in modo preciso la fotografia di quello che Marx prevede già negli anni 60 dell'Ottocento. Quindi da questo punto di vista noi abbiamo la previsione di Marx che in qualche modo, anzi più che in qualche modo, si invera, ma soprattutto abbiamo la dimostrazione dei vari meccanismi attraverso cui il capitale continua a contrastare la sua stessa crisi. Per concludere voglio citare anch'io Marx, se riesco a trovare la citazione, in cui Marx dice molto chiaramente qual è il limite del modo di produzione capitalistico e perché il modo di produzione capitalistico è un modo di produzione transeunte, storico, quindi destinato a morire, a essere sostituito da un altro modo di produzione. Dice Marx, il vero limite del capitale è proprio il capitale, cioè è che il capitale e la sua autovalorizzazione, cioè la creazione di profitto, si presentano come punto di partenza e punto di arrivo, perché lo scopo è solo quello della produzione di profitto, come motivo e fine della produzione. Il mezzo, lo sviluppo incondizionato delle forze produttive sociali, entra costantemente in conflitto con lo scopo limitato, la valorizzazione del capitale esistente. Se dunque il modo di produzione capitalistico è un mezzo storico per lo sviluppo della forza produttiva materiale e la creazione di un corrispondente mercato mondiale, è allo stesso tempo la costante contraddizione tra questo scopo dato dalla storia e i rapporti di produzione sociale ad essi corrispondenti. Quindi il modo di produzione capitalistico sta dimostrando proprio oggi, durante quella che Summers ha definito la stagnazione secolare, che da una parte tende allo sviluppo delle forze produttive e lo vediamo con l'impiego della scienza, con lo sviluppo di nuovi ritrovati, con lo sviluppo di nuovi settori e così via, e dall'altra parte però crea l'imbrigliamento, l'ostacolo a questo stesso sviluppo delle forze produttive. Quindi l'elemento centrale di critica marxista al capitale, che è la contraddizione tra sviluppo delle forze produttive e rapporti di produzione, oggi appare in modo più chiaro che mai, e io credo che da questo dobbiamo ripartire per fondare la nostra pratica politica e la speranza e l'auspicio per la ricostruzione di una soggettività antagonista. Grazie. Grazie. Senza nulla aggiungere, passerei la parola a Ubaldo Fadini. Sì. Allora, da questo livello, insomma, di analisi, di riflessione, di sintesi, no, del discorso marxiano, no, da questo livello estremamente chiaro, netto, a me spetta un po' di scendere, di articolare sicuramente un ragionamento un po' più, tra virgolette, confuso, recuperando proprio il motivo del general intellect, no? Dell'intelletto generale. In questa prospettiva ho pensato di recuperare il risultato parziale di un'operazione che io e altri amici e altre amiche tentammo negli anni 90, appunto diciamo motivati dal bisogno di capire allora, in anni complicati che venivano da anni ancora più difficili, ancora più complessi, di capire quello che stava accadendo rispetto, no, a questo rapporto tra sapere e produzione che sembrava assumere forme un po' diverse, un po' lontane da quelle a cui eravamo abituati. E in modo particolare con un amico fraterno, Adelino Zanini, mettemmo in piedi questa operazione che poi ebbe come esito, come risultato, la pubblicazione in apertura degli anni zero di un lessico post-fordista, no? Di un dizionario delle idee, alcune, di mutazione della mutazione. Pubblicato dalla Feltrinelli, una collana fantastica in quel momento, la collana Interzone, che ha avuto il merito, grazie ai compagni che la dirigevano, di pubblicare cose importanti del pensiero critico radicale, non soltanto nostro, ma anche appunto a livello internazionale. Non so, mi viene in mente il testo sul manifesto Cyborg, tanto per noi indicarne uno dei molti che furono allora pubblicati. Questo lessico post-fordista è un lessico che raccoglie appunto un lavoro di un decennio, coinvolse in quel periodo studiosi, ripeto, amici, amiche, tutti impegnati, tutte impegnate su diversi piani, dal livello più propriamente politico a quello sindacale, a quello anche, perché no, universitario e altro ancora. Vi indico alcuni nomi per darvi un'idea. Non so, Sandro Mezzadra, Massimo De Carolis. Allora riuscimmo poi negli anni 90 a intercettare anche, a coinvolgere anche Luciano Ferrari Bravo, e poi Marco Bascetta, Liana Borghi, Paolo Virno, Cristian Marazzi, Alessandro Dallago e Andrea Fumagalli, per una voce sul reddito di cittadinanza, no? Che già allora ci pareva qualcosa di importante, di significativo da prendere in considerazione. Poi Franco Berardi, Bifo, no? Che conosciamo un po' tutti, Gabriele Polo, ma insomma potrei, Alisa Del Re, potrei continuare all'infinito. Sono 60 voci, no? Che cercano bene o male, con i nostri limiti, di mettere a fuoco quella che, ripeto, sembrava essere ed era di fatto una trasformazione, un cambiamento importante del nostro, si fa per dire nostro, del modo di produzione capitalistico. All'interno di questo lessico, perché me lo sono ricordato, nonostante l'età che avanza e quindi la memoria che cede, me lo sono ricordato questo lessico perché all'interno di questo volume c'è una bella voce di Paolo Virno, che ha il merito proprio di chiarire alcuni degli elementi, alcuni degli aspetti che sono per noi importanti, no? Del general intellect, dell'intelletto generale. In questa prospettiva, quello che io farò è molto semplice. Cercherò di selezionare, di estrarre alcuni degli elementi del contributo dell'intervento di Virno, quelli che a me paiono più significativi, per inquadrare il tema, per inquadrare il concetto, il contenuto della formula. Poi concluderò con un'altra citazione, mi sento un po' tra virgolette postmoderno, no? Con questa idea di citare tanto, insomma di citare molto, andrò a finire con un passo di un altro grande studioso, grande compagno, grande nel senso a livello umano di spessore, non tanto per quello che ha pubblicato, per quello che ha scritto, anche per quello, perché poi ha aiutato molti di noi a capire quello che stava accadendo a partire dagli anni 70, arrivando, no, quasi agli anni 10, insomma. E sto pensando a André Gorz, no? Che anche lui, insomma, è da ricordare e da menzionare, perché ha dato un contributo di complicazione, di agitazione, di elasticizzazione di un concetto, di una formula come quella dell'intelletto generale, che rischiava poi di diventare una specie di parola d'ordine che non aiutava tanto a cambiare le cose, no? A muoverci in maniera seria, in maniera radicale. Rischiava di essere la classica parola d'ordine che in un qualche contesto poteva anche apparire come un vero e proprio comando, un vero e proprio comando, quindi mortificante e tutto sommato, appunto per questo, estremamente avvilente. Che cos'è l'intelletto generale? Permettetemi, questo piano di tenuta forse potrà risultare noioso, ma insomma l'ho pensato così, il mio contributo, il mio, il mio intervento. Allora, sappiamo tutti che, l'ha già detto molto bene Marco, che è un motivo, un tema che tiriamo fuori da questo cosiddetto frammento delle macchine che appartiene ai lineamenti fondamentali di critica dell'economia politica, cioè una serie, una somma di quaderni, no, della espressione della ricerca sterminata, insomma, di Marx, no? Rispetto a quella che era la sua ossessione, cioè di articolare un discorso, diciamo, puntuale e solido di critica dell'economia politica. Ecco, il frammento sulle macchine, quello, le pagine che a noi interessano per capire qualche cosa dell'intelletto generale, furono pubblicate proprio nel 1962, no, se non ricordo male, grazie, vabbè, Quaderni Rossi, quindi Panzieri, non mi ricordo in questo momento il nome del traduttore, mi viene in mente Renato Solmi, ma non sono, è vero, è Solmi, è Renato Solmi, che è stato uno degli straordinari, un compagno vero, serio, torinese e grandissimo studioso e traduttore del meglio della teoria critica della scuola di Francoforte, no? Da Benjamin ad Adorno, insomma, è lui il traduttore, il curatore ancora oggi di testi fondamentali di Adorno e dell'antologia di Benjamin, no? Angelus Knowles. E questo per dirvi l'intelligenza, no, che poi era espressione di un tentativo di fare realizzare con ricerca, cioè di spendere risorse intellettuali nel confronto diretto con le dimensioni di trasformazione, no, del modo di produzione capitalista. Quindi Torino, la grande industria, la Fiat e altro ancora. Quaderni Rossi, 1962, traduzione del frammento sulle macchine. E lì noi sappiamo che, così ci è stato detto, ma io sono in parte anche ancora d'accordo, nonostante che gli anni siano passati, è stato detto ripetutamente che in quelle pagine Marx sostiene, tra virgolette, una tesi ben poco marxista, nel senso però segnalato da Domenico Moro, no? Cioè il Marx, diciamo così, mortificato, spesso e volentieri, per la sua collocazione sia pure eccentrica sia pure parziale all'interno della dogmatica imperante della sinistra, della cosiddetta sinistra. Sostiene, e questo lo scrive e lo dice molto bene Paolo Virno, sostiene una tesi ben poco marxista, tra virgolette marxista. Dice Marx, in pillole, in sintesi, secondo questa modalità di lettura che io sto recependo e che sto riassumendo e in parte anche nel mio piccolo riarticolando, dice Marx, il sapere astratto, quello scientifico in primo luogo, ma non soltanto quello scientifico, il sapere astratto nella complessità, nella molteplicità delle sue articolazioni, si avvia a diventare, proprio in virtù della sua parziale autonomia dalla produzione, niente di meno che la principale forza produttiva. Niente di meno che la principale forza produttiva, in virtù, si potrebbe dire a causa, meglio in virtù, della sua parziale autonomia dalla produzione. E questo che cosa comporta? Comporta che il lavoro parcellizzato e ripetitivo, tutto ciò si svolge all'interno di una dimensione che centra, anzi rileva, la centralità della tendenza, stiamo parlando su questo piano qui, no? Relega tutto questo, il lavoro parcellizzato, il lavoro ripetitivo, in una posizione sempre più laterale, non voglio dire marginale, sempre più laterale. Di che cosa si tratta? No? Se si parla di sapere astratto sotto tale veste, di che cosa si tratta? Sempre riassumendo Marx, diciamo così, rimanendo poi magari anche sbagliando, no? Sul testo, di che cosa si tratta? Si tratta del sapere oggettivato nel capitale fisso. Si tratta, quando si parla di questo sapere astratto, che diventa sempre più centrale, no, nelle dimensioni della produzione reale materiale, si tratta di sapere oggettivato nel capitale fisso, incarnatosi Paolo Virno dice e utilizza questo strano termine, ma vale la pena? Allora valeva la pena al tempo di Marx, no? Oggi questa formulazione dovrebbe essere parzialmente rivista, ma neanche troppo forse. Invece che incarnatosi, si può dire anche inferratosi, inferratosi nel sistema automatico di macchine. Questa è, diciamo, il riepilogo di alcuni dei passaggi più importanti del frammento sulle macchine, no? Del frammento delle macchine, sulle macchine. Marx ricorre, cioè, a un'immagine estremamente suggestiva, no? È quella che ci interessa qui, per indicare l'insieme delle conoscenze che si traduce in tale forma, no? In questa forma, no? Arrivando a costituire in una particolare forma l'epicentro della produzione sociale, no? Ma è un porsi che nello stesso tempo preordina, dispone in maniera diversa, in maniera differente rispetto al passato, tutti gli ambiti dell'esistenza sociale, no? Tutti gli ambiti vitali, diciamo, utilizziamo questa formula un po' più generale, no? Ai limiti del generico. E la formula che utilizza, no? È quella appunto, come ha detto Marco, di general intellect, no? Di intelletto generale. È un'immagine suggestiva, non si sa bene quale sia, diciamo, il supporto teorico a cui Marx fa riferimento nel momento in cui mette in campo questa formula. Qualcuno parla di Rousseau addirittura, qualcun altro mette in gioco Aristotele, ma questi sono, come posso dire, tecnicismi che lasciano un po' il tempo che trovano. No? Importante che ci sia questa formula, general intellect, intelletto generale. Questo è il dato di partenza, il primo punto da sottolineare. Ancora, come articolazione veloce e rapida di questo primo punto, Marx, siamo negli anni 50, no, del XIX secolo, identifica senza residui, allora nel frammento, il general intellect appunto con il capitale fisso, no? Lo identifica in questi termini. Lo identifica, cioè, con la capacità scientifica oggettivata nel sistema delle macchine. Questa è la posizione di Marx che ritroviamo nel frammento. Ecco, molti, riprendendo Marx, commentando questo Marx, no? Cercando, diciamo, di metterlo ancora, per così dire, paradossalmente a valore, spenderlo, molti hanno detto che quell'idea lì di Marx, no? È un'idea ovviamente fondata e da apprezzare, pur nel riconoscimento di alcuni limiti del discorso di Marx all'interno del frammento. Perché Marx trascura nel frammento quel lato che ci restituisce il general intellect, qui mi rifaccio all'analisi, no? di Domenico Moro per quanto riguarda la terminologia che sto impiegando, no? Trascura Marx il lato per cui l'intelletto generale si presenta come lavoro vivo, cioè viene messo troppo sullo sfondo, Quindi va bene il discorso del, come si può dire in italiano, dell'inferramento, no? Cioè del sapere astratto che si incarna, no? Appunto come intelletto generale nel sistema delle macchine operanti all'interno dei luoghi della produzione, no? All'interno della dimensione propriamente produttiva. No? Però ecco, rispetto a una ripresa del contenuto del lavoro, di questo lavoro di Marx, dobbiamo essere consapevoli che questo lavoro di Marx è datato, cioè è riferibile, è riferito a una fase particolare, no, della storia del modo di produzione capitalista. Appunto, siamo negli anni 80, siamo negli anni 90 del secolo scorso, ma ancora prima si ritorna un po' indietro, no? A partire dal momento, insomma, di pubblicazione del testo nella nostra lingua, in lingua italiana, no? E quindi si può rilevare o rilanciare l'attenzione di Marx a questa immagine straordinaria, suggestiva dell'intelletto generale, nel momento in cui, al di là dei limiti che sono rilevabili, no, dell'indagine, perché è un'indagine storica, quindi non può che avere dei limiti, no, si può anche tentare di agganciare questa immagine qui, suggestiva, stimolante, forte, ai limiti del profetico, la si può rilanciare questa immagine per agganciare forse al meglio alcuni elementi, no, del nuovo processo di trasformazione del nostro modo di produzione, quello capitalista. E allora questa, le novità, insomma, nel complesso poi delle sue manifestazioni individuate come proprie della nuova fase della storia del modo di produzione capitalista, queste novità erano novità, diciamo, recepite in un modo anche oggi che può apparire, insomma, molto molto limitato, erano recepite allora queste novità in una prospettiva tesa a segnalare la novità, no, propria della progressione del modo di produzione capitalista, sotto quale veste? Sotto una veste che allora era etichettata come post fordista, no? E noi avevamo questo come obiettivo di ragionare, no, su questo cambiamento di fase e su questa novità, tra virgolette, specifica propria del modo di produzione capitalista. E per farvi comprendere, spero un po' meglio, lo sforzo che facemmo allora, con tutti i limiti, ma insomma la nostra idea era un po' quella. Marx va benissimo con la formula dell'intelletto generale, vediamo di spenderla, no, nel nostro presente, rispetto, no, a ciò che è cambiato e che sta cambiando sempre più velocemente, cambiava sempre più velocemente in quegli anni lì, no? Del capitalismo che avevamo appunto davanti, nel capitalismo che avevamo davanti. E qui la proposta, l'idea, ma che non tradiva troppo Marx, comunque non era un'idea truffaldina, no? Magari tradiva un po' Marx, ma nel senso che cercava di tradurlo, Non era però, diciamo così, era una questione, come posso dire, militante quella che era in ballo, di indagine, di lettura, sulla base poi anche dell'impegno nel campo materiale vero e proprio, no? In ambito, nella dimensione, insomma, più propriamente empirica, che ci restituiva le trasformazioni del lavoro e, diciamo così, tra virgolette, tante virgolette, delle soggettività, dei soggetti, insomma, di lavoro. E allora, andando avanti in questa direzione, la proposta che venne fuori, che non tradiva Marx, ma che cercava di mettere anche Marx, lo stesso Marx, insomma, a valore, ma a valore per noi, nella prospettiva che a noi interessava, no? Di avere strumenti di lettura seria, di lettura critica radicale, insomma, di quello che stava accadendo. L'idea che venne fuori era quella di piegare la formula dell'intelletto generale, no? Nel senso di comprenderlo, di afferrarlo alla lettera, proprio come intelletto generale. No? Il general intellect andava visto appunto come intelletto in generale. In generale. Questo era, come posso dire, il risultato, il frutto di un tentativo di ampliare, no? Di allargare il campo semantico specifico, proprio il significato, insomma, della formula. E in tale direzione, per riprendere qui direttamente alcune formulette che possono essere però chiare, perché sono effettivamente chiare, che cosa voleva dire muoversi in questa direzione, cioè puntare a una sorta di relativa liberalizzazione del generale intellect, sapendo che però, no, sotto vincolo veniva diciamo messo a valore, veniva speso, veniva impiegato in alcune delle sue particolarità che di solito venivano trascurate, erano state trascurate, laddove appunto si era più o meno lavorato, no? su tale motivo, su tale formula. E allora in questa prospettiva cosa indicava la formula dell'intelletto generale, no? Dell'intelletto in generale? Eravamo convinti, qui Paolo lo dice bene, Paolo Virno, eravamo convinti che per general intellect bisognasse intendere, no? Mettere anche in questione, insomma, non soltanto le opere del pensiero, l'intelletto in generale, diciamo, questa lettura del general intellect non indicava semplicemente la messa in questione apparentemente ovvia, banale, no? La lettura più semplice, insomma, del contenuto di tale formula, no? Non metteva in questione le opere del pensiero, no? Le opere del pensiero. Non metteva in questione le opere del pensiero. Esempi, un libro, una formula algebrica, altro ancora che poi, no, tradotto in una determinata modalità può risultare importante e significativo per l'articolazione dei processi produttivi. Metteva in questione, presentava dunque la formula dell'intelletto in generale, del general intellect dispiegato in questo senso, metteva in questione, presentava la centralità, esagero, l'importanza crescente di che cosa? Della facoltà del pensare. Della facoltà del pensare. Metteva in risalto come all'interno, diciamo, del nostro mondo, nel mondo di quegli anni, la facoltà complessiva del pensare risultasse sempre più appetibile agli occhi di coloro, qui personalizzo e sbaglio, di coloro che mandavano avanti la macchina capitalista. Ecco, questo era estremamente importante. Per rappresentare questo rapporto, diciamo, tra intelletto generale e lavoro vivo, no? Come ha ricordato Marco, lavoro vivo post-fordista, però qualificato, etichettato in quella direzione, anche con una evidente forzatura, sembrava che bastasse far riferimento addirittura all'atto con cui qualunque parlante, ad esempio, attinge alla inesauribile potenzialità della lingua, del linguaggio. Adesso, al di là del carattere, del tratto qui un po' troppo ermetico, no, della formulazione, detto in termini più, tra virgolette, ortodossi, a che cosa si rinviava di Marx? No? Alla problematica dell'assunzione reale, no? Ma assolutamente dispiegata, completamente dispiegata, no? Capace appunto come sussunzione reale di mettere a valore non soltanto alcune particolari nostre capacità, abilità e facoltà, ma addirittura di mettere in produzione, no? L'intera, la facoltà complessiva del pensare. Questo era il punto importante, no? Che sembrava in una qualche maniera andare a specificare, no? Questa novità, questo cambiamento di fase, insomma, dello sviluppo capitalistico, no? Della storia poi del capitalismo. Ancora, se avete pazienza, un altro paio di punti vi voglio richiamare, che vi avevo promesso. Si parla di intelletto in generale, no? Il generale intellect viene tradotto in questi termini e in una qualche maniera allora l'intenzione che prese corpo era quella anche di qualificare l'intelletto in generale soprattutto sotto veste pubblica, nel senso comprensiva, no? Di tutte le attività di cooperazione e di condivisione, insomma, no? Tra gli individui, tra i soggetti. Ecco, era questo un po' il motivo che pensavamo andasse, non so se sbagliando oppure no, che andasse ricercato, andasse analizzato. Qui riprendo alla lettera un passo, perché anch'io lo condivido, di Virno, quando lui dice che parlare di un intelletto generale significa parlare di un intelletto pubblico. E poi, facendo un accenno, diciamo, più propriamente filosofico, ma assolutamente non fuori luogo, scrive anche nel post-fordismo la vita della mente. Qui c'è un richiamo a Hannah Arendt, no? La vita della mente diventa estrinseca, diventa condivisa, diventa comune. È la facoltà del pensare, la facoltà, diciamo, complessiva del pensare in tutte quelle che sono le sue specificazioni, in tutte quelle che sono le sue articolazioni, che viene messa in produzione. Che viene messa in produzione. Ecco, quali sono, ci si chiedeva allora, ragionando su questo piano, no, di articolazione di interesse e di attenzione ai cambiamenti del modo di produzione capitalista in senso post-fordista, quali sono le conseguenze di questa traduzione pubblica, tra virgolette, no, dell'intelletto? Quali sono dell'intelletto generale? Quali sono le conseguenze e gli effetti di questa resa pubblica, no, dell'intelletto generale? E qui ve ne segnalo, tagliando un po', per arrivare poi alla citazione di Gorz, ce ne sono un paio, perlomeno, qui mi sono segnato. La prima ha una valenza più propriamente politica, no? Perché questa trasformazione, questa resa pubblica dell'intelletto generale va a toccare che cosa? L'ambito, va a toccare la natura di ciò che poi sbrigativamente possiamo definire come potere politico. Quindi c'è questo aspetto qui su cui non mi soffermo, perché è un qualche cosa che meriterebbe sicuramente molto, molto, molto più tempo, no? E posso semplicemente dire, con una battuta, per il tempo che lasciano le battute, che la resa pubblica, no, dell'intelletto in tale prospettiva, cioè attenta a cogliere le trasformazioni, no, della natura del potere politico, no, questa attenzione particolare a che cosa poi si presta, no, a che cosa arriva come esito poi di lavoro, di analisi, di indagine, arriva a individuare una sorta, qui si dice in termini un po' bruschi, una sorta di statizzazione dell'intelletto, che fa sì che la vecchia, classica, cara a qualcuno, formula della ragion di Stato diventa nel nostro presente, no, qualcosa di effettivamente, dannatamente, forse anche concreto, qualcosa di concreto. Ma questo è un piano di ragionamento, diciamo, un po' più, come posso dire, a livelli di mistero, bisognerebbe, detto così, insomma, è troppo sbrigativo, ecco il mio tentativo di sintesi. La seconda, il secondo punto che qui ho tirato fuori è quello forse più interessante per noi, perché la seconda conseguenza di questa resa pubblica dell'intelletto va a toccare, riguarda la natura stessa del post-fordismo, cioè di questa nuova fase, no, di sviluppo del modo di produzione capitalista. Ecco, qui vi leggo proprio il passo di Paolo Virno. Scrive Virno: mentre il tradizionale processo produttivo si basava sulla divisione tecnica delle mansioni, no? Sulla divisione tecnica delle mansioni. Esempio, chi fa la capocchia dello spillo non si occupa del corpo dello spillo e viceversa, no? Quindi in passato, ma poi è un passato che ritorna, c'è ancora questo passato, si manifesta ancora, è ben presente, ma insomma, ragionando sul cambiamento di fase, no? Mentre il tradizionale processo produttivo si basava sulla divisione tecnica delle mansioni, l'agire lavorativo fondato, imperniato sull'intelletto generale, sul general intellect, l'agire lavorativo riferito a questo, alla resa pubblica dell'intelletto, muove dalla comune partecipazione alla vita della mente, muove, cioè si articola a partire, no, dalla partecipazione, una partecipazione appunto come tale condivisa, di molti lavoratori, a che cosa? Alla vita della mente, cioè muove, per dirla in termini forse un po' troppo filosofici, dalla preliminare condivisione di generiche competenze, generiche ma in senso non banale, non negativo, generiche competenze comunicative e cognitive. Muove da questo il processo produttivo che si aggancia, diciamo così, alla dinamica della resa pubblica dell'intelletto, no? Che è una dinamica chiave per la comprensione poi del perché, no? Siamo entrati, si entra in una nuova fase di sviluppo del capitalismo. Quindi la condivisione dell'intelletto generale, no? Questa caratteristica di fondo dell'intelletto generale restituito ovviamente sotto veste pubblica, la condivisione dell'intelletto generale diventa l'effettivo fondamento di ogni prassi, di ogni tipo di prassi. Questo è un punto decisivo, no? L'intelletto generale, la condivisione che l'intelletto generale manifesta, no? Nella sua realtà e che è evidente soprattutto nella sua resa pubblica, diventa questa condivisione l'effettivo fondamento di qualsiasi tipo di prassi, no? E quindi non c'è più, diciamo così, la classificazione delle diverse tipologie di prassi, no? Confinate e relegate all'interno di ambiti che sono rigidamente separati, insomma rigidamente no, ma separati gli uni dagli altri. Qui abbiamo l'individuazione dell'intelletto generale nella sua valenza cooperativa di condivisione, no? Abbiamo questa individuazione dell'intelletto generale come fondamento di ogni tipo di prassi. Conseguenza di questo ragionamento criticabile, ma è una conseguenza su cui molti hanno ragionato e riflettuto, no? Quindi in questa ottica, in questa prospettiva che vede la centralità, il protagonismo, insomma, dell'intelletto generale, che cosa succede? No? Finisco la citazione. Rattrappiscono tutte le forme di azione, non è che vengono meno, che spariscono, risultano meno importanti nella logica, all'interno di quella logica, no? Nella quale appunto tradizionalmente si articolano, insomma si articolavano e si articolano ancora. Rattrappiscono tutte le forme di azione concertata, ovviamente, che si basano però sulla divisione tecnica del lavoro. Diventano meno centrali, cioè non so neanche quale qualifica o quale squalifica, diciamo, prendere in considerazione. Diventano meno importanti, perdono un po' di protagonismo, me la cavo così. Perdono un po' di protagonismo tutte le azioni che nella fase precedente, no, di sviluppo capitalistico erano fondamentali, decisive, tutte quelle azioni che si fondano sulla divisione tecnica del lavoro. Questo è il punto delicato, delicatissimo, di messa di spesa, di impiego. L'ultimo punto, diciamo con questo poi lascio da parte, metto da parte tutte le derive, diciamo, disegno teorico ovviamente di carattere emancipativo, liberatorio, che no, sono state in un qualche modo delineate, disegnate a partire, no, da questa comprensione del contenuto, della causa o anche della ragione, se volete, del cambiamento di fase, del passaggio dal fordismo al post-fordismo. Passaggio esplicitato da questa resa pubblica dell'intelletto generale, da questa resa pubblica dell'intelletto generale che fornisce, no, come dispositivo di valorizzazione qualche cosa che non è al 100% identificabile con le tipologie di prassi legate alla classica divisione tecnica del lavoro. L'ultimo punto, perché la sto facendo veramente troppo lunga e quindi me la cavo così, con una citazione da un testo di André Gorz dei primi anni zero di questo secolo. Conoscete forse un po' André Gorz, insomma in Francia è stato anche, diciamo, tra i primi a recepire in modo vivace, in modo produttivo, l'importanza, no, del ragionamento che noi in Italia siamo stati tra i primi a fare partire, no? L'importanza del ragionamento di Marx, quello che abbiamo visto, no? Contenuto nel frammento sulle macchine. E Gorz, studioso imprescindibile e compagno, permettete la qualifica un po' idiota, compagno vero, André Gorz, in ogni senso, in questo testo che si intitola, che abbiamo tradotto in una rivista di Milano, Mille Piani, in questo testo che si intitola, lo abbiamo tradotto nel 2008, Pensare l'esodo dalla società del lavoro e della merce, in questo suo testo, poi di Gorzo trovate contributi importanti, un'antologia pubblicata subito dopo la morte nel 2009 dalla Yaka Book di Milano che si intitola Ecologica, no? Che raccoglie molti testi di Gorz e alcuni di quelli finali, conclusivi, insomma, no? Del lavoro, della ricerca di Gorz. In questo testo Gorz, riprendendo buona parte, no? Del lavoro che era stato fatto da noi in Italia sull'intelletto generale, arriva a scrivere delle righe che io considero di rilancio e di riproposta seria, viva, vivace, del tema dell'intelletto generale, oggi, di riproposta oggi del motivo del tema marxiano dell'intelletto generale. Lascio da parte tutta una serie di premesse, il passo è lunghissimo, non ho tempo, se no Marco poi mi spara. Dice Marx, scusate il lapsus, Gorz, dopo un ragionamento complicato che non vi riassumo perché altrimenti veramente poi mi perderei nei commenti e nelle parafrasi, dice: il capitale fisso umano, vale a dire ciò che si concretizza nel momento in cui, come sostiene Christian, no? Christian Marazzi, abbiamo sempre di più oggi introduzione di tecnologia, tra virgolette, nel corpo vivente della forza lavoro, no? Il capitale fisso umano, no? Il risultato di questa dinamica, cioè del fatto che noi siamo sempre più legati, collegati, no? A un mondo, diciamo, di progressioni tecnologiche che letteralmente disegna la nostra sensibilità e la nostra intelligenza, laddove ci decliniamo come soggetti di lavoro, come soggetti produttivi, come soggetti produttori. Il capitale fisso umano, considerato così, non è come il capitale fisso ordinario, no? Quello presente nell'opera di Marx e anche, diciamo, restituito all'interno del frammento sulle macchine, non è come il capitale fisso ordinario del lavoro morto oggettivato, no? Il capitale fisso ordinario è questo, è il lavoro passato oggettivato, è il lavoro, tra virgolette, morto oggettivato e restituito nel sistema delle macchine che è operativo all'interno, no, dei luoghi della produzione. Però il capitale fisso che noi siamo è di natura diversa da quel capitale fisso lì, dal capitale fisso, diciamo, tradizionale, no? Che è il lavoro morto oggettivato, no? Servito come lavoro passato oggettivato, morto oggettivato, servito o messo in opera dal lavoro vivo, in termini marxiani. Il lavoro, il capitale fisso umano è, a differenza del capitale fisso, diciamo, ordinario, è della stessa natura del lavoro vivo. Questo dice Gorz, no? Non lo dice soltanto lui, evidentemente c'è un giro di riflessione a più voci, estremamente articolato, ampio, che arriva a questa constatazione, no? A questa tesi. Il lavoro, il capitale umano fisso, è al contrario della stessa natura del lavoro vivo, cioè è il risultato, noi siamo il risultato delle attività e delle esperienze proprie dell'individuo sociale generale, dell'individuo sociale. Ancora due righe, poi termino veramente. Il capitale umano fisso non è soltanto tutto suo, il capitale fisso umano non è soltanto tutto suo, cioè il capitale fisso che io sono, no? È mio, no? Almeno, ma è un fatto concreto, è mio. Il capitale fisso umano, scrive Gorz, non è soltanto tutto suo, è lui stesso, il capitale fisso umano, il frutto e il risultato della sua capacità, almeno in parte, in gran parte, di prodursi da solo. Di prodursi da solo, cioè in relativa, parziale, ma comunque importante, significativa autonomia. No? Ed è questo che in un qualche modo sembrava contrassegnare allora, negli anni 90, nei primi anni zero, il lavoratore post-fordista, poi è stato etichettato in mille maniere. Ne consegue che neppure gli individui sviluppati hanno avuto bisogno di un'impresa capitalista per prodursi. Neanche essi hanno avuto bisogno, appunto, di un'impresa capitalistica per prodursi. Neanche essi hanno avuto, ossia, per mettere in opera il loro capitale, ossia le loro capacità in modo produttivo. Essi, i lavoratori post-fordisti, possono in linea di principio emanciparsi dal capitale, perché hanno il pallino di una loro relativa autonomia in mano. Ce l'hanno, sono capitale fisso, però umano. Essi possono in linea di principio emanciparsi dal capitale, in linea di principio, sottrarsi al capitalismo per, si diceva allora, autoprodurre dei beni materiali e immateriali per il loro proprio uso comune, sottraendoli così a che cosa? All'impero, diciamo così, al dominio della forma valore, cioè alla forma denaro, alla forma merce. È una possibilità di sottrazione, insomma, che si manifesta, si concretizza in questo senso, in quest'ottica. Io non so se questo dispositivo teorico, no, ha delle carenze, dei buchi clamorosi, però ne apprezzo la linearità, no? Ne apprezzo lo sviluppo, ne apprezzo comunque soprattutto la segnalazione, no, o l'attribuzione di un minimo di protagonismo, no, a ciò che noi siamo, no, rispetto a ciò che noi siamo come in questo momento capitale fisso umano, nei processi di valorizzazione del valore. Ok, tutto qui, scusate la lunghezza. Grazie. Faccio sedere se ha voglia di venire qua o ti allungo il microfono. Ah. Passo la parola adesso a Massimo Grandi. Grazie. Allora, io ho seguito con interesse gli interventi che mi hanno preceduto e che in parte mi possono aiutare ad affrontare quel tema che mi è stato assegnato, che è un tema complesso. E voglio partire seguendo un po' anche la scaletta così nominale degli interventi, dall'idea dell'attualità, ovviamente non dell'attualità del marxismo, se ne è parlato a lungo, né dell'attualità dei Grundrisse, che sono stati prima ricordati da Quaderni Rossi, sono stati anche il fondamento, tanto per metterlo tra parentesi, dell'operaismo, anche non soltanto di Panzieri, ma anche di Mario Tronti e del suo Operaio Capitale. Quindi non è questa l'attualità che mi interessa, l'attualità che mi interessa è quella legata a quella fase che descrive Marx nel frammento sulle macchine. Ora, noi siamo qui oggi a discutere di genere intelletto, quindi diamo per scontato che quello scenario che lui descrive, cioè di quella fase di sviluppo del capitalismo, quindi quella fase di sviluppo delle macchine, il sistema delle macchine, sia quello che oggi noi viviamo. Forse Marx ha visto qualcosa che non poteva vedere, perché non poteva vedere, ma che però si è realizzato. C'è però, e noi ripeto, diamo, se vogliamo proseguire in questa discussione, dovremmo dare per scontato che siamo in questa fase, però bisogna fare attenzione, perché non tutta la fase che descrive Marx la possiamo considerare attuale. Quindi il primo nodo che sciogliamo facilmente, io il mio intervento praticamente si costruirà su tre nodi molto interlocutori. Il primo nodo è quello più semplice, l'ho detto adesso, cioè accettiamo l'idea, perché potrebbe anche non essere vero e potrebbe spiegare anche tutte le difficoltà che noi ci troviamo oggi di fronte, no? Affrontare dal punto di vista politico, non dal punto di vista teorico, dal punto di vista politico la situazione. Però diciamo che questa cosa è effettivamente la fase nostra, però non tutta. Ma andiamo avanti. Anch'io voglio citare Marx, perché non si può farne a meno. Lui scrive, attenzione, non è né il lavoro immediato eseguito dall'uomo stesso, né il tempo che egli lavora, ma l'appropriazione della sua produttività generale, la sua comprensione della natura e il dominio su di essa attraverso la sua esistenza di corpo sociale. In altre parole, dice Marx, è lo sviluppo dell'individuo sociale che si presenta come il grande pilone di sostegno della produzione della ricchezza. In queste parole c'è una potenza, e noi questa potenza la dobbiamo comprendere tutta. Dico questo perché quando oggi andiamo a scrutare nel lavoro di ricerca, nel dibattito, quando si parla di questo, di questa fase, quindi del, dico general intellect, ma non mi piace questo termine in questo momento. Comunque, quando si parla di sapere in generale, ci si pensa subito al lavoro intellettuale. Ci sono fiumi e fiumi di ricerche, di libri sulla trasformazione del lavoro, dal lavoro manuale al lavoro intellettuale, con la sottolineatura che il lavoro intellettuale oggi tende a prevalere su... Ma che diceva, l'uomo si mette accanto alla macchina ormai a controllarla, non è più, è lui che è schiavo della macchina, non ha più la macchina in mano. Ma comunque la ricerca sul lavoro intellettuale è importante, ma non è l'essenza, è parte importante ma non la parte essenziale. Marx non parla mai di lavoro intellettuale, mai. Lui parla di uno sviluppo dell'individuo sociale e di produttività in generale. Questo lo dico perché poi in general intellect i termini portano a, come si potrebbe dire, a confondere su questi elementi. Marx non si poteva, per questo torno alla prima cosa che dicevo, Marx a suoi tempi come poteva immaginarsi oggi una evoluzione della tecnica che ci permette di far circolare informazione, conoscenza, saperi in tempo reale, a livello globale, diremmo a livello universale. Lui lo potrebbe, ha capito che ci sarebbe stata una fase di questo tipo, ma certamente non aveva la possibilità materiale di disegnarla, era impossibile. Ma noi sappiamo che oggi l'evoluzione della scienza, l'evoluzione del sapere sociale, l'evoluzione complessiva delle conoscenze, come si dice in generale, hanno portato a questa fase. Oggi noi abbiamo una circolazione continua di informazioni. È una continua trasformazione di saperi individuali, di saperi taciti, in saperi espliciti. Uso tacito e esplicito perché voglio citare così colui che queste categorie se le ha inventate, cioè Malamy. Polanyi, scusate. Ma intorno a queste categorie, cioè del sapere tacito, che è il sapere mio personale, io poi vado su internet, Marx non aveva internet, quindi non poteva nemmeno sognarselo, e vado su internet e quello che io so lo metto su internet. È un lavoro che faccio, è il frutto di una mia ricerca, lo metto su internet. Il mio sapere tacito diventa sapere esplicito, perché a quel punto è pubblico. È pubblico. Tutto questo meccanismo di circolazione e trasformazione ha creato anche una scuola delle teorie. Per esempio, quella più importante è quella che è sorta da un'elaborazione di questo studio a partire da Polanyi, eccetera, che è quella del capitale cognitivo. Cioè c'è un capitale cognitivo e qui bisogna invece far chiarezza. Questo è il secondo nodo importante. Bisogna far chiarezza perché il capitale è una cosa e la conoscenza è un'altra. Tutto questo sapere in generale, cioè tutta questa circolazione di informazioni che si trasformano, crescono, si moltiplicano, si incrociano, eccetera, sono solo valore d'uso. Solo valore d'uso. Non producono ricchezza. Io posso mettere su internet tutte le cose più belle e più magnifiche che voglio, ma non ne cavo un centesimo. Cioè, di per sé e in sé, la conoscenza in generale non è capitale fisso. Lo deve diventare. È semplicemente valore d'uso. Ma Marx lo dice, lo voglio recitare, perché così non è quello che dico io, ma quello che dice lui. La produttività della società si commisura al capitale fisso, esiste in esso in forma oggettiva, e viceversa, la produttività del capitale si sviluppa con questo progresso generale di cui il capitale si appropria gratuitamente. Continua Marx, l'accumulazione della scienza e dell'abilità delle forze produttive generali, del cervello sociale, rimane così, rispetto al lavoro, assorbita nel capitale e si presenta perciò come proprietà del capitale, e più precisamente del capitale fisso. Nella misura in cui esso entra nel processo produttivo come mezzo di produzione vero e proprio. Cioè ci vuole un processo di trasformazione. Il sapere in generale o entra nel meccanismo di produzione capitalistico e quindi nella veste di capitale fisso, se volete, ma comunque deve entrare in questo processo. Se non entra in questo processo non produce ricchezza. Non è vero che il sapere sociale è Marx dice che è il pilone fondamentale di produzione della ricchezza, ma non è che la produce di per sé. E questo è un fatto importante. Marx, quando disegna lo scenario del frammento delle macchine, che poi, oltre il frammento delle macchine, prosegue nei Grundrisse. Lui disegna uno scenario, intelligentemente percepisce un qualcosa che si costruirà, ma non parla di un meccanismo, non dice come. Dice che, ma non dice come. Non dice come questo sapere sociale diventa ricchezza, quindi come si trasforma, come viene cooptato all'interno del sistema. Quindi il secondo nodo intorno a cosa che è interlocutorio, ho detto prima, si costruisce intorno a questa domanda: come possiamo immaginare di declinare oggi? E questa è la parte forse più complessa: declinare oggi la teoria del valore a misurare questo processo, perché Marx l'aveva misurato, cavolo, sulla fabbrica del 1870, ma su questa rapina continua di ricchezza che lui non paga niente. Qual è il meccanismo? La teoria del valore è sempre valida, però bisogna che siamo in grado oggi di declinarla, quindi di piegarla a questo nuovo diciamo tipo di problema che si pone. Basti pensare a quanto pesò alla fine del XIX secolo la teoria del valore sulla costruzione di una coscienza di classe. La teoria non è una cosa che sta lassù e poi le cose pratiche sono... Questo è un modo di ragionare di oggi. In realtà la teoria costruisce prassi. E la coscienza, la costruzione di una classe in quegli anni avvenne proprio anche attraverso la comprensione del metodo di sfruttamento, di come funzionava lo sfruttamento. E oggi dovremmo fare lo stesso. Ed arriviamo quindi velocemente all'ultima parte, al terzo nodo, cioè al tema mio, che non è facile, cioè quello del salario sociale. Marx dice: non appena il lavoro in forma immediata ha cessato di essere la grande fonte della ricchezza, il tempo di lavoro cessa e deve cessare di essere la sua misura. E quindi il valore di scambio deve cessare di essere la misura del valore d'uso. Con ciò la produzione basata sul valore di scambio crolla. Subentra il libero sviluppo dell'individualità e dunque non la riduzione del tempo di lavoro necessario per creare più lavoro, ma in generale la riduzione del lavoro necessario della società ad un minimo. Voglio dire, qui Marx non solo prefigura uno scenario, ma proprio un'apoteosi, una fine. È il crollo della produzione basata sul valore di scambio. Il libero sviluppo dell'individualità, il tempo di lavoro ridotto al minimo. Cioè un superamento, se vogliamo, un superamento naturale del sistema. Un processo analogico di estinzione del capitalismo. Ma in realtà non è andata così. Ma se stesso ce lo dice, in realtà in questa serie di appunti, Marx già se lo segna, dice: il capitale è esso stesso la contraddizione in processo per il fatto che tende a ridurre il tempo di lavoro a un minimo, mentre dall'altro lato pone il tempo di lavoro come unica misura e fonte di ricchezza. Da un lato evoca quindi tutte le forze della scienza, della natura, della combinazione sociale, delle relazioni sociali, al fine di rendere la creazione della ricchezza relativamente, tra parentesi, indipendente dal tempo di lavoro impiegato in essa. Dall'altro lato però esso intende misurare le gigantesche forze sociali così create alla stregua del tempo di lavoro e imprigionarle nei limiti che sono necessari, ovviamente, per conservare come valore il valore già creato. È qui che sta il problema anche di attualità. Perché noi ci troviamo di fronte a uno scenario. Sappiamo che il superamento del capitalismo... Qualcuno l'ha preso alla lettera questa cosa di Marx. Anche i nostri amici di Roma, Paolo Virno, quando dicevano che noi, ormai, quando l'uomo è insieme capitale fisso e capitale variabile, abbiamo risolto il paradigma, perché siamo fuori dalla... Non è così. Noi ci troviamo di fronte oggi a questo... faccia del capitale, cioè quello che misura ancora di fronte alle gigantesche forze che ha messo in moto, misura ancora tutto secondo le regole che, che ovviamente gli sono congrue, cioè del tempo di lavoro. Quindi bisogna ripartire. Quindi in realtà tutto ritorna a un problema di, proprio come categorie pure, a un problema di conflitto di classe. Cioè a un problema di lotta fra capitale e lavoro. Al centro c'è il tempo di lavoro, ma anche il sapere sociale, anche tutto quello che circola di informazione è in sé il tempo di lavoro. Perché insomma io impiego il tempo, chiamatelo come vi pare, ma il tempo che io impiego per fare le mie ricerche, che poi metto su internet, è tempo anche questo di lavoro. Ecco dove, quali sono le basi su cui noi possiamo impostare e ipotizzare un'idea di salario sociale, che non ha niente a che vedere, questo credo si possa capire, non ha niente a che vedere con i redditi di cittadinanza, con i redditi minimi di sussistenza, con i redditi. Perché? Perché in un conflitto di classe sono le classi che si scontrano, non c'è lo Stato. Il salario sociale non è qualcosa che si rivendica nei confronti dello Stato, si rivendica nei confronti del padronato, cioè si rivendica nei confronti del capitale. Il salario sociale è la rivendicazione di un reddito dal lavoro, quel lavoro che non viene pagato. Questo però comporta in sé un problema molto grosso, che è quello che il salario sociale non è una voce, non è un titolo, no? Come può essere il reddito di cittadinanza. Io scrivo e poi ci scrivo sotto cos'è. Il salario sociale o è rivendicato o non esiste. Cioè è parola d'ordine e strumento di lotta di un soggetto politico o non esiste. Questo è il fatto. Purtroppo è così. Quindi noi dobbiamo pensare al conflitto, o comunque a come affrontare il problema oggi di questa sapere sociale che produce, che è pilastro della ricchezza, ma che non vede un centesimo, anzi che al contrario funziona come fattore di sviluppo della controparte. Dobbiamo pensarlo come costruzione di un soggetto politico, così come nel 1870 c'era da costruire una classe antagonista, un blocco sociale poi. E guardate, quando dicevo, attenzione, che l'attualità della fase descritta da Grundris, quindi il frammento sulle macchine, è attuale, o perlomeno noi la vogliamo vedere come attuale, ma non tutta. Perché se andate a leggere attentamente, il termine di general intellect, Marx lo adopera solo alla fine. E vi dico, quando ve lo leggo, lo sviluppo del capitale fisso, dice, mostra fino a quale grado il sapere sociale generale è diventato forza produttiva immediata, e quindi le condizioni del processo vitale stesso della società sono passate sotto il controllo del general intellect. Qui non si parla più di produzione di ricchezza, si parla di controllo politico generale del general intellect della società, cioè di un soggetto politico. Magari ci è arrivato naturalmente, ma lo sappiamo che non ci arriva naturalmente. Quindi ci deve arrivare attraverso un conflitto. Fino a quale grado, dice Marx, le forze produttive e sociali sono prodotte non solo nella forma del sapere, ma come organi immediati della prassi sociale, cioè è il governo totale del territorio, è il comando, è il potere. Quindi quando si parla di, quando Marx parla di generale interno, non parla più del sapere in generale, parla di un soggetto. Lo chiama general intellect. Quindi general intellect non è il sapere in generale, è il sapere in generale che si fa soggetto politico e passa e diventa organo immediato della prassi sociale. Oh, ora, e chiudo così. Il problema è chiederci oggi, come comunisti, già siamo pochi, ma che si deve fare? Di fronte a questo ambito di problemi, nello specifico del tema di oggi, secondo me, ma credo di rappresentare anche il collettivo a cui appartengo, c'è questa grande necessità di una elaborazione teorica proprio su quella questione della teoria del valore. Cioè oggi sul, diciamo, in mano non c'è niente, nessuno ha affrontato questo tema in maniera veramente, cioè, sempre il lavoro intellettuale, ma sul problema della questione della teoria del valore non. Quindi da una parte c'è un invito a tutti gli intellettuali, quindi all'intellettualità, quello che una volta si chiamava l'intellettuale organico, cioè gli intellettuali comunisti, di dedicarsi, di impegnarsi in questo. Ma è anche un compito dei militanti, è anche un compito semplicemente dei comunisti in quanto tali. Il lavoro teorico, in questo caso, e lo dico da tempo, deve essere in qualche maniera assunto come lavoro di prassi. Noi distinguiamo sempre la teoria dalla prassi, quindi il lavoro teorico. Però quando è necessario, quando diventa prioritario, lo studio, l'approfondimento, il lavoro deve diventare una prassi politica. Dall'altra, si può anche tentare una prassi vera e propria. A partire da dove? Tentare, si tratta di tentare, cioè di provare a iniziare a far circolare certe idee da dei punti che sono più favorevoli. Qual è il luogo che, diciamo, storicamente e materialmente è deputato per definizione alla creazione, alla circolazione, alla sintesi della conoscenza? La scuola. E mi riferisco soprattutto all'università. Perché l'università non solo produce brevetti, produce spin-off, ricerca finalizzata, ricerca di base, queste sono inezie. Quello che interessa la produzione. Io ho sentito decine e decine di conferenze delle associazioni industriali, delle associazioni degli artigiani. Non si parlava mai di brevetti, di cose. Si diceva il nostro interesse è sulla filiera della conoscenza. Perché la filiera? Perché il grosso del prodotto di conoscenza che viene fuori, soprattutto, ripeto, dall'università, avviene nel sistema dialogico dell'università, cioè nella trasmissione continua tra docente e studente, nei corsi, nelle ricerche, nelle tesi. È questo che è il sapere in generale, parte del sapere in generale ovviamente, però costituito intorno ad un'area che è particolarmente interessata a questo tipo di cose. Allora, diceva, l'abbiamo anticipato un po' Marco prima, perché non provare a verificare queste nostre, diciamo, riflessioni, all'interno del... Non è facile, guardate, non è... oggi non è facile, nell'università di oggi non è facile. Ma provare e dire, allora, se lo studente in quanto tale, non perché poi alla fine la tesi sua viene presa, rapinata da un'impresa e trasformata in un prodotto, no, per il fatto stesso che lui dedica quei 5-6 anni di lavoro, di studio, di ricerca, di cosa. Se questo è sapere in generale, perché non pagarlo? Perché non chiedere un salario? Quindi non è il presalario che si dà a quelli meno abbienti, è la rivendicazione di un lavoro svolto, è la rivendicazione di un lavoro da pagare. Ripeto, è difficile, oggi soprattutto nell'università è molto difficile, però varrebbe la pena, credo, di tentare, perlomeno di cominciare a parlare di queste cose all'interno. Quindi, da una parte un approfondimento teorico, dall'altra anche un inizio, seppur parziale, difficile, di prassi politica. E con questo ho finito, vi ringrazio. Nel ringraziare i relatori, siccome anche comunque si fa una certa, e volevo proporre a chi volesse, me lo risparmio io l'intervento che avrei voluto fare, se qualcuno vuole fare un intervento, dire qualcosa. Sì, e se altrimenti qualcuno che non sia fra i relatori, dicevo prima di ripassare parola per qualcosa di conclusivo. Ripasso la parola a Domenico, se vuoi. No, io non ho da aggiungere grandissime cose, diciamo che sulla base della mia esperienza anche lavorativa e di analisi ho potuto verificare che c'è un processo che un tempo si sarebbe chiamato proletarizzazione di alcuni settori, diciamo così, di lavoratori intellettuali, impiegati e tecnici, proprio l'introduzione della burotica, dell'informatica, di tutta una serie di sistemi all'interno delle attività lavorative ha condotto a un impoverimento dei contenuti del lavoro stesso, a una parcellizzazione, a una ripetitività del lavoro stesso di molti settori, molte figure del lavoro. Mentre dall'altra parte c'è un aumento del lavoro non solo manuale nel senso di lavoro esecutivo, ma c'è anche un aumento di nuovo di lavoro fisico, per esempio in determinati settori del terziario. Questo è un altro elemento molto importante. Il capitale stesso in alcune situazioni ha rinunciato o ha addirittura ridotto l'uso delle macchine per rimettere in opera lavoro fisico. Questo durante la crisi si è addirittura verificato questo fatto in numerose fabbriche anche del nostro paese. Credo, dal mio punto di vista perlomeno, che il tempo di lavoro necessario storicamente rimane l'elemento di base del funzionamento del modo di produzione capitalistico e che quindi il calcolo delle ore di lavoro sia un elemento importante per il capitale che fra l'altro è impegnato nelle sue varie frazioni in una lotta per ridurre il tempo di lavoro necessario al di sotto di quello che è socialmente necessario. Quindi ogni società, ogni impresa cerca di ridurre al massimo i costi di produzione e con essi i tempi di lavoro per avere margini di profitto più alti, mantenendo magari i prezzi sul livello intermedio. Del resto questa è una cosa che ho sperimentato anch'io nella impresa in cui lavoravo e che appunto cercava di tenere alti i margini di profitto proprio attraverso determinati strumenti che poi sono strumenti che il capitale sta utilizzando sempre di più per contrastare la caduta del saggio di profitto. Quali sono? Ne parlavamo prima mentre prendevamo il caffè con Massimo. Sono gli strumenti del marketing, l'uso del brand, Molte volte alcuni prodotti vengono venduti al di sopra del prezzo di produzione, beneficiando del brand, cioè beneficiando praticamente di un valore d'uso fittizio che viene percepito superiore dal pubblico, dal consumatore. Quindi io direi che prima di dire che il tempo di lavoro socialmente necessario non esiste più o che non è più l'elemento fondamentale, bisogna stare attenti. Così come secondo me bisogna stare attenti a non considerare la concretezza, la materialità della classe lavoratrice oggi, che, ripeto, si sta caratterizzando per un aumento di lavoro fisico, non solo manuale esecutivo, ma anche di lavoro fisico. Per quanto riguarda il lavoro manuale, io considero con Marx come lavoro manuale non il lavoro fatto con le mani fisico, ma il lavoro esecutivo. Ed oggi noi stiamo vedendo appunto che il lavoro esecutivo, al lavoro esecutivo viene ridotta una quota sempre maggiore dei lavoratori, appunto grazie agli strumenti dell'informatica, grazie agli strumenti della tecnologia moderna. Quindi la tecnologia moderna, così come diceva Marx, a proposito della macchina, anche l'informatica, anche il software, sono non strumenti per liberare l'uomo dalla fatica del lavoro, ma semplicemente strumenti per aumentare lo sfruttamento. Sfruttamento che però sempre del lavoro vivo, della forza lavoro, dell'uomo, anche se questa forza lavoro in alcuni settori si confronta con un capitale costante. Io non utilizzerei il termine fisso, utilizzerei il termine di costante in contrapposizione col lavoro, col capitale variabile, anche se quindi la parte di capitale costante è enorme, almeno in certi settori. Però c'è appunto uno sviluppo, ripeto, di settori terziari dove la parte di capitale costante è piccola e dove invece la parte di capitale variabile è grande, dove lo sfruttamento avviene in modo molto forte, dove il lavoro fisico, ripeto, è ancora predominante. Comunque vi ringrazio per questo confronto e spero che ci siano altre occasioni per confrontarci su questo ed altri termini. Grazie. Colgo anch'io l'occasione per ringraziare, soltanto per spiegare che cosa sta succedendo. Chi è salito ha visto magari un capannello di persone all'ingresso, eccetera. C'è un presidio permanente qua che va avanti da una settimana, contro a violenza, mafia, sessismo, razzismo, profitto e tante altre brutte cose che stavano avendo luogo in questo chiostro. Ce ne siamo riappropriati liberandolo da queste dinamiche e chiunque voglia contribuire ci trova qua nei prossimi giorni. Ringrazio di nuovo Domenico Moro, Baldo Fadini e Massimo Grandi e grazie anche a chi ha partecipato. Ricordo anche che la registrazione di questa iniziativa sarà disponibile probabilmente da domani sul sito di Radio Wombat. Il palinsesto sta là sul tavolo per chi lo volesse prendere. Wombat.noblogs.org è il sito su cui sarà disponibile per intero.